E com'è il titolo della canzone che ha cantato? Sante Caserio. Proprio il titolo esatto è Sì. Sante Caserio, sarà la morte di Sante Caserio, Non so più Faiza, niente. no? Quello Ti liquido ricordi? non so, non so E, più. senta, lei che ha cantato, come si chiama? Carlo Bianchini. Carlo Bianchini. Allora, già che ci siamo, registriamo il suo indirizzo. Il suo indirizzo cos'è? Via Colonnata numero 29, Numero Carrara. 29 Carrara, le spiego, perché ho l'impressione che la registrazione che abbiamo fatta serva solo per tirare giù le parole, per così sentire la musica Sì. e diciamo per determinare un certo tipo di voce che mi pare che vada bene. Per fare il disco ho l'impressione che lei debba venire a Milano, cioè in sala di registrazione. Allora lì troviamo una Sì, ma chitarra anche mi adatta. piacerebbe più, diciamo, già lo sguardo è più adatto, l'idea che Beh, lei sì, ci ma magari metta. tutti e due, vediamo, insomma, no? Adesso io poi faccio passare questo Sì. materiale, io le scrivo prima con 10 giorni di Sì, tempo, in modo che lei mancherà. si Sì, può vabbè. preparare, no? Magari se manca qualcosa Mi lo preparo una inserisce, quindicina di giorni ecco, una prima, quindicina di giorni io prima, trovo un chitarrista in molto modo che si focoso, va in sala di professionale registrazione. Ora, adesso io le vorrei chiedere alcune cose, e qui ci può aiutare Farina. Scusami un po'. Bianchini, lei mi vuol per favore, Bianchini, no? Si Sì, chiama? Bianchini. Ecco, lei mi vuol fare una sua biografia? Quando è nato? Io sono nato il 4 novembre del 1924. 24. È sposato? No, sono vedovo. Ho capito, è vedovo. Sì. E lavora? Lavoro alla Ferrovia Marmifera. Alla Ferrovia Marmifera. Queste cose, cioè già lo sguardo, Santo Caserio, lei le ha cantate in altri posti, mi pare, Le ho no? cantate sempre, diciamo così, in compagnia con, diciamo, con dei balconi così, perché ho sempre un pochino cantato, Con dei balconi diciamo. cosa vuol dire? Balconi vuol dire dei compagnoni, si dice, nelle betole di qua e di Ho là, capito, per compagnia così, ho bevendo il capito. bicchiere dal vino, Però l'ha così. cantato anche a Livorno, al A Livorno l'ho congresso per la cantato a cultura Rosignano, popolare. sì, a A Rosignano quando ci Rosignano fu quando c'è stato il il congresso no. del 1946, quando siamo andati a Rosignano Ah, Solvay per per inaugurare il l'inaugurazione del busto di busto a Pietro Gori. Pietragori. Ah, è del Sì, del 46, 46, sì. A 46. Rosignano. A Rosignano. Rosignano Ho Marittimo. capito. Marito, sì. Lei è anarchico. Sì, la mia fede è È anarchica. anarchica. Ma come le ha sentite? Da chi le ha sentite Mi, queste si qui? sono, so, mi sono nate proprio nel cuore, così diciamo, e già lo sguardo, diciamo, e Sante Caserio sarebbe il mio cavallo di battaglia, Sì. piuttosto canto delle canzoni vecchie e nuove, diciamo, insomma, si dice da Sì. dilettante, da buontempone, così. E già lo sguardo è più, Sì, Sante Caserio è vuol più un senato che ho avuto sempre in me. dire. Ho Vuol capito. dire da chi Senta viene. Bianchini, lei mi potrebbe fare una cortesia e accennarmi il motivo, lo improvvisi di Addio Lugano Bello, cioè voglio sentire la sua impostazione. Non si Veramente, preoccupi, così come viene, così se come le posso dare una verrebbe. piccola impostazione, ma non lo Ecco. so. Avvio Lugano Bello. Addio Lugano bello, oh dolce terra pia, spaciati senza colpa, gli anarchici van via e partano cantando con la speranza in cuore, e partano cantando con la speranza in cuore, ed è per noi sfruttati, per voi lavoratori, e siamo ammanetati al par dei malfattori. Eppure la nostra idea Non è che non è che idea d'amore. d'amore, eppure la nostra idea non è che idea d'amore. Addio Anonimi compagni. Vabbè, non importa, guardi, si ferma qui, si compagni. ferma in impostazione. Adesso Failla, mi faresti un favore a cantarla tua di Lugano Bella? Beh, Così, come io si viene, comincia, no? guarda. Ecco. Ma che sei?